chi sei? Non stai uscendo. Sono in casa seduto sulla sedia, non sto uscendo, sono seduto fermo. Certo. Buonasera signor Gio Maria. E ieri come mai non sei entrato? Buonasera signor Gio. Non mi sentivo bene ieri, veramente male, mi sento veramente male, sicché chi mi aveva voglia di accendere lui. Ho coricato e ma anche oggi non che mi sento tanto bene, però meglio di ieri già so, dai. La si sente anche dalla voce che sei un po' giù. Ieri l'ho messo male veramente, non almeno pranzato ieri. Era tutto scombussolato, non avevo voglia di mangiare, non avevo voglia nemmeno di muovere, nulla, guarda, come una siarana, anzi, c'avevo anche l'ansia di qualche cosa, però non riuscivo a capire perché. Il tempo sarà, che c'avevi la glicemia molto molto alta, no? No, ce l'aveva 153, no? Cazzo, l'ho avuto anche a 200 e più, no, l'ho avuta, non mi sentivo come ieri, assolutamente, capito? No, 153 ce l'avevo, già era alta, però non era alta da potermi sentire male così, capito? No, mi sono attaccata un'ansia da quando mi sono domandato lunedì mattina. Infatti quando stavo per salire a Piazza Licini mi sono alzato e sembravo non avevo niente, ma ero un po' sia a capogiri che non mi sentivo, ecco. Sono salito alto e cioè, speriamo che non mi succeda niente. E invece all'aria mi sembrava che era più, mi sentivo più bene, però abbiamo fatto un giro e mentre siamo ritornati anche subito, capito? Allora doveva essere qualche cosa di influenza, no, o colpo d'aria. Può essere pure qualche colpo d'aria, non lo so. Oggi io mi sento più bene, infatti sono sceso in campagna, comunque stavamo tagliando, portando là e sembrava che, insomma, non stavo male, ecco. Vabbè, meglio così, che ti è passata, doveva essere qualche colpo d'aria. Può essere anche domenica, che eravamo in campagna tutto il giorno e almeno sono stato preso, mi sembra che erano alle 9 meno un quarto, una cosa del genere, perché stavo cominciando a fare un po' freschetta, allora il tagliaio ce l'abbiamo. Allora, ripeto, me ne sono alzato che mi sentivo strano, tutto strano, ecco. Allora, cosa che hai preso in campagna, qualche colpo d'aria hai preso in campagna e oggi ti è passato. Non lo so, e che non aveva voglia accendere, o io, mamma mia, ero sempre coricato, mi ero saltato un giro a mangiare un boccone, mi sono mangiato un pezzo di ricotta buccia, ho mangiato un pezzetto di pane e un grappolo d'uva, non ho mangiato altro, puoi immaginare. Speriamo che continui come adesso, che sia più bene, dai. Piano piano si appassa, vai andare domani appassa. Come è andato? Mi perdite di sé? Ah, non c'ero io, no. Io ero a una festa di compleanno di mio nipote. Ehi, vabbè, lo so che eri lì, dici, mazza, mi siete divertiti, oh. A Puglia. Alle 9:30 era a casa. Anche da anche te ne devi andare alle 8:30 te ne devi andare. Beh, ad tutto te ne sei mandato. Alle 9:30 ero in casa io. Uh-huh. Beh, ho acceso, era tutto già acceso, mi sono portato giù il baffo, mi sono portato, era tutto già acceso. Di mattina non c'era nessuno, poi la sera ho sentito a Pomponi, lo sentivo. Sì. All'ora della processione, verso le 4:30 o 5, una cosa del genere, se lo sentivo, però c'era qualche altro, però non arrivavano bene da me, a me non mi sentivano, a me, però io a Pomponi non lo sentivo benissimo, stavo parlando con qualcuno, ma non so, capito, me lo sono portato appresso e sentivo solo a Pomponi e basta. No, c'era Marchisio e Giovanni, c'erano. Non so in quale canale erano, però c'era Giovanni e Battiglio. Non li sentivo, sentivo solo a Pomponi e basta, capito? Ma neppure a scariche, arrivava anche a scariche, capito? E qualcosa, col gomino ero, capito? Ti avrei messo la base magnetica, magari l'avrei sentito anche di più, però non ne ho messo base magnetica. Però a Pomponi, ripeto, lo sentivo. No, lui... forse lui era più forte degli altri, ma secondo la zona dove erano non li sentivi. E qualche volta lo sentivi, qualche volta no. Non lo so dove erano. Sentivo che stavo parlando fra di loro, però io ho chiamato varie volte, ma non mi sentiva. Mi spostavo a piedi così sulla strada, ma non mi sentiva nessuno. E nemmeno Marino è entrato, perché l'ho lasciato la sera fino alle 8 acceso, ma non ho sentito nemmeno Marino. Marino deve darsi di rago Gruni Budi, Giugendi. Fa che darsi. Ma me lo immaginavo, Io me lo sono portato appresso e l'ho lasciato sempre acceso. E tutto il giorno acceso era. Sì, tutto il giorno, che erano le 10:30 quando sono arrivato in campagna, l'ho acceso ed era sempre acceso fino alle 8:15 là. Hai fatto bene. Vabbè, allora tanto se hanno finito alle 6:30 hanno finito. 6:30, 7:20, non di più. Dove sta pensando Luca che hanno visto a Bacchisio e a Pomponio? Ho detto no, c'ero io, per cui non ho visto la processione quest'anno. Quest'anno siamo scesi in campagna perché c'erano tutti, c'erano tutti i miei e tutti i miei nipoti, così che erano sempre in calamedire là. Hai fatto bene, tanto ci abbiamo fatto il gioia, quindi hai fatto bene. E vabbè, vuol dire che al prossimo anno dirà bene del mobile bene. Speriamo di vederli, di essere vivi, almeno li vediamo. Ma quando ci vuoi sei in campagna domenica, non lo so. Sabato di sicuro sì, c'era in campagna, perché abbiamo preso una pecora e la facciamo a bollice, poi facciamo anche gli gnocchi, e per cui saremo in trullalina pure sabato. Meglio così, tu vieni già ogni domenica e ogni sabato. Vabbè, ci siamo uniti, abbiamo preso questa pecora e così che ce la facciamo bollita, capito? Con patate, carote, cipolle, eccetera, eccetera, e così via. Vino bianco. Che ce ne sia sempre. Secondo me c'è da mangiare io. chissà che non la voce, ah, grazie a domenica, mi cugnato. Ma una cosa di costoro, appetito ci vuole, però baccerei poi chi porta questo, chi porta quell'altro, oh, dai, a trabagliare la cosa che rimane sempre, per carità, siamo troppi spreconi siamo là. Quello sì, ma quando si fa però, poi me la sei in un bel sempre. Perché magari tu porti una cosa, con l'altra porto un'altra cosa, anche se c'è. Ma siamo troppo esagerati, capito? Oh, cagare, gatta, ma madonna, gatto. Pesce, cos'era? Pesce, via. Pulpi arrosso, cose, cazzo, gratinate, bene. Ui, aveva un po' di roba, cazzo, che dai, cazzo. E vabbè. Mesa l'arruccio, cazzo. Peperoni arrosso, fatti a insalata, bucciati, cazzo, fa che buono ciò, cazzo. Madonna, che Susi, quello sì, bisogna fare sempre così, bisogna fare, quando venne bisogna mangiare, a voi che andava avanti, che buoni a tutti. Perché se finché c'è tempo bello che si può fare l'altra cosa, certo che quando comincia a fare freddo magari tutti dentro non ci siamo, perché pure c'è una veranda grandissima, ci sono più di 150 persone in quella veranda, due tavoli lunghi, 4 L, cazzo, furia, capito? E in queste giornate così si sta bene fuori, capito? Dentro no, dentro è piccolino, per cui no, ci sta poca gente. Però fuori, cazzo, ohia, se mi piccolo avanti, fai cave desire a magnete, cave desire a magnete. Io fa così, bisogna fare. Purtroppo, quando è freddo, è tosso, il tempo mare non si va a genuna. Quindi bisogna approfittare quando è bello. Faccio la giornata diversa dagli altri, capisci, casa invece, cazzo, perché io sono giovane, loro mi cattino dalla base, cattino dall'altra, capito? Ma le persone un po' grandette, gli altri rimangono, e poi altri rimangono anche ragazze e giovani pure, capito? Quando si uniscono così, ci uniamo tutti quanti, allora siamo tutti tutti in famiglia, e qua pure fuori, va. Ce n'è anche qualche famiglia di fuori, per cui eravamo più di 40, eravamo, per dirci che gente ce n'è, ripeto, chi porta questo, chi porta quell'altro, catta, dovrà fare male, manca a mangiarti tutta la cosa, capito? Se ne va per bombe. Fate così, ne va per bombe, se ne rapi. Ehi, ehi. Bene, bene, signor Macchisi, ancora si è sentito, no? Ah, ieri sera sono andato a prendere mia moglie, quando è seduto il rato non verrà più nessuno. C'era lui ieri sera, ha detto, sto andando a prendere la signora, ma che ti lascio io? E dai, dai, già sono qua. Hanno seduto il rato non verrà più. E chi c'era ieri sera? Ah, chi c'è solo, poi non so chi sia entrato. E non lo so. Io lo faccio, non ce la facevo, che mi ha gallo e ha sentito. Cazzo, ero proprio si ritrovato veramente. Così che allora si fa sentire stasera Bacchigio, e anche Marino. Noi siamo passati lì, ma non c'era nessuno sul piazzale. Ho suonato, sì, ma c'era luce accesa in casa di Marino, però ho suonato, ma quando sono faccio dritto io, capito? Fuori non c'era nessuno, invece l'altra domenica c'era gente fuori nel piazzale, per cui invece domenica non c'era nessuno. Vuol dire che domenica sono stato in gita, qualche altro posto, vabbè, non saranno delle cose, ma ieri il marchese è entrato verso le 7:10, una cosa del genere. Bello! Sta prefacendo, mentre c'è Gio Maria. Che bada lui, buonasera! Sei tutto solo lui, che sono stanco. Abbiamo fatto il saccaccio dei lavori oggi. Adesso c'è domani mattina. Però domani mattina ci andiamo io e lui solo, capito? C'era anche quell'altro amico suo oggi, ma io tanto parecchio, va. Ha lavorato veramente quella persona, capito? Però a bruciacchiare ce lo bruciacchiamo domani con Luca, capito? Già ce la facciamo tutti e due. Cosa hai fatto da solo? Addirittura. Perché l'abbiamo messa e l'hai messa troppo soffro, troppo ammucchiata lì, proprio dove bruciavo, invece doveva, vabbè, non ci ho pensato io a dirtelo, a metterla più fuori, capito? Invece abbiamo buttato sopra, è quel punto che io dovevo bruciare, era l'unico punto. Adesso magari mi sposto e tocca metterla poco a poco, invece dove è il mucchio adesso? Lì potevo fare un mucchio un fuoco grande, capito? Bruciava subito. Però già ce la bruciamo lo stesso, là poi abbiamo pulito anche tutto il viale, capito? Quegli alberi che c'erano abbiamo tutti portati, anche gli alberi fichi, gli alberi delle albicocche, diceva alla tettoia, e abbiamo fatto là. Prima ho telefonato e non ha risposto. Dopo un po' ho ritelefonato e non mi ha risposto nemmeno, insomma, non lo so. Allora ho telefonato a Luca e gli ho detto, ha ritelefonato lui a vero un po', e dice che non rispondevi. Allora ma sta ritelefonando, mi ha detto, dice, apprendiamo, dice, questo qua, dice a me, così e così. Luca dice forse è ricoverato perché dice si doveva ricoverare. E ho detto, lo sapevo che doveva ricoverarsi, però no, la data non sapevo, giusto. E ha detto lui, fammi finire a quell'amico tuo. Ecco cosa c'è stato lui. Io ti avevo il telefono scarico, la stava caricando, e forse per quello, infatti dopo ha risposto mia moglie, una volta che ha ripreso la ricarica, ha risposto mia moglie perché io stavo preparando, non mi capisco. Va bene, detto va, Luca ci deve essere assentato. Fatto così. Va benissimo, va. Quando si deve fare le cose si fanno. Abbiamo approfittato, la giornata era bella, così che tanto dovevamo bruciare domani, no? Tanto che c'è da tagliare qua ancora quell'altro poco, almeno già tagliata, e possiamo bruciare una e l'altra, capito? Per usare prima bruciando quella, dopo ritagliando, e devo rifare dopo il fuoco, capito? Invece in questa maniera è tutto pronto, quando quando brucia brucia tutto, anche se è fresca, ma in mezzo alla secca ci mettiamo la fresca e brucia ugualmente. Infatti, io ho fatto lì, no, per lì. Attento signor Macchisio, niente da fare, ancora in campagna, con la zappita in mano. No, già, prima di imbrunire se ne sale, se ne mette la macchina. Oh, hai sentito in PMR a Coggio, a Bombolo? Sarebbe sì. Anche lui c'ha il PMR. Non so chi sia questo Bombolo. Non se lo presento. Ah, Tony Bombolo, abita vicino a me qua. Capito, la vicina la piazza Borsico. Lì che porta il porta le bombe, lui è padre. Non sono presente. Forse di Roberto. Conoscerai anche il padre, perché il padre, aspetta, mi si chiamava il padre. Il figlio si chiama questo qua, Antonio, si chiama Antonio. Noi chiamiamo Antonio Bombolo come nome nativo, capito? E il nome è Antonio, e il nome del baracchino è Bombolo, capito? Ah, Pisa, non mi ha messo il nome del babbo, ma non parla più il padre, capito? Prima parlavo molto spesso, ma adesso no. Sono tanti anni che non sono entrati. Fai il burro ed è sparito dalla frequenza. Infatti anche lui è sparito, ma anche lui figlio non è che è sempre attaccato, no? A domenica così, sabato sera, quando è libero già entra, ma se no anche lui entra poco. Anche lui si è preso il baffo, capito? Sono stato lì con questo là. Ma lo stanno usando anche sul lavoro, lo stanno usando, perché la mattina li sento parlare fra di loro, questo va bene, fai così, attacca così, fai là. La cosa che non sale molto. Aspetta il telefono. Ah, Tore, al telefono. Hai visto il Bombolo? Anche lui c'ha l'apparecchietto, almeno qualche volta la chiacchierata va bene ugualmente, dai, anche lì. Io pure quando sono a casa dopo pranzo me lo faccio, mi corrigo dopo che finisce Rai 3, che mi guardi il telegiornale regionale, mi aspetto finché dice il tempo, quando finisce il tempo mi corri, quale 2:30, là su per giù, alle 4, 4:30 me le alzo, e così che accendo l'apparecchio, però la pedichiera me la faccio anch'io tutti i giorni. Domani mi devo allontanare che sto andando a prendere la signora, ci sentiamo dopo. D'accordo, già acceso, vai pure. Cazzo, che bella, sono dolcissimi i cacchi, si vera, e a me pure mi piace, io purtroppo non ne ho. Oh, quest'anno No, le ho cacchio, No, però faccio solo la cassetta, ma ce n'era qualcuno, no assai. Però tutti quasi, boh. Infatti mi sono meravigliato perché poi un cacca in faccia dura ogni anno, quest'anno non ne ha messo, a quel poco che c'era ne è sceso basso. Io ci sono mangiato due o tre Luca che mi erano rimasti. E aveva pigliato qualcuno e mi parava in mano per dirci no, il sdraio, cazzo, mette per non toccare e mi parava, capito? Chi fa fa cosa? È vero bello. A tutti li arriva io, come tutti gli anni, perché se lo mangiava è più che ne parava che pigliava, mi capisco. Dai, non raccogli prima se fatto a chi si individisce, anche se è verde, non lo fai in due giorni a casa si cucina, capito? Io certe volte mettevo dei cartoni in magazzino e la mettevo in terra sopra i cartoni, ogni sera se devo me la portavo una cassetta, ti puoi immaginare, ma dall'anno scorso in là, capito? Invece quest'anno purtroppo niente, non ce n'era, ecco. Magari già rimango un po' più buone, capito? Io ne ho due alberi solo, però non ne raccolgo. Sì, qualche po' la raccogliamo e ne mettiamo a molle, capito? Ma solo quelle belle, basta, capito? Quest'anno infatti non sono sani, ecco. Mentre l'anno scorso c'era un mucchio di olive dappertutto e anche sane. Invece quest'anno sono pochi, però sono anche punte. Come tutto il resto, capito? Anche la frutta è tutta punta, tutta guata. E forse la seccagna perché non ha piovuto quando doveva piovere, allora il caldo le ha rovinato. Quando c'è caldo l'insetto si attacca a tutto, ecco, che la frutta è tutta guata, tutta. Va, finivo l'arancio, pure l'arancio mi già la piazza quest'anno io. Però l'anno scorso erano piccolini, non hanno maturato, ecco. Però quest'anno sono più mature perché già li ho innaffiati, invece l'anno scorso non li ho innaffiati nulla, è per quello che sono diventati piccoli. Quest'anno sembrano più grossi e vi devo fare almeno gli agrumi. Boh. No, non l'ho visto per niente, penso di no ancora, mi sembra che era fermo, boh, aveva finito i quattrini e a quanto ho capito non aveva più soldi, non l'ho più visto sinceramente. Ma lo so, poi specialmente queste case vecchie, non è che come lì tu riesci a fare tutto, no? Oh, scherza. L'aria ha fatto Luca, però ce ne battere fuori un messuglie. A fila ce ne voglio, e a voglia, oia. Era così, non lo so sinceramente. Domani non ci so, però dopo domani ci passo, faccio la mia figlia e ci salgo a vedere a che punta sono, se c'è qualcuno, non lo so, a lui non l'ho visto più, era pericolo perché se l'ha guasta la macchina eppure, e mi sembra che abbia acquisito la macchina, e così che i soldi, e peggio ancora per i soldi. Bisogno di bucare tutto così, non c'era bisogno, in qualche cameretta va bene, ma fare tutte quelle tracce non c'era la necessità, perché il piatto c'era anche più di dubbi che avevano messo, magari certe camere va bene, chiaro che dovevano spacciare, però vabbè, loro hanno voluto fare così e sono fatti loro, capito? Per cui non ho, ripeto, non li ho più visti, anche padre non ci sta andando, e lui ce l'ha più poco perché è sempre impegnato, adesso l'hanno cambiato da Alghero, ce l'hanno portato a Ussieri, deve viaggiare senza macchina, un casino là. Oh, guarda il coso all'ospedale, capito? È proprio lì, cazzo, ma lo so da mia figlia e i soldi che c'ha adesso, davvero, e per cui lo so, anzi, quella sua era più bene messa, quella mia figlia era più peggio, e so che ci ha messo un bel soldi, per mettere a posto bene mi sembra 30.000, mi sembra una cosa di genere, 30 o 35.000 euro ci ha messo. Beh, è tutta sua. Ma un bel soldi ci sono, ci sono bel soldi. E lì ci sono anche, hanno fatto anche l'impianto di riscaldamento, hai visto che c'è, insomma, ci hanno messo i fogoni e qui c'hanno anche la stufa Pellet. E ben fatta, ecco, ben fatta. Da nuovo hanno fatto lì, pavimento. È stato anche rialzato il pavimento perché era più basso il pavimento e li hanno dovuto riempire e bene e poi hai visto il lavoro che abbiamo fatto con Luca, lì abbiamo fatto un lavoro, abbiamo coperto quella casetta del legno all'altra parte e più fuori, hai visto che abbiamo fatto un grande lavoro, ma i muri sono da 80 di Olua, i muri sono da 80, sanno che sono case vecchie, fatte in quelle case sono fatte a Ibiru terra e calce, capito? È presa, cantoni vi dice poco, i cantoni sono di boiare in l'angoli quando vanno i gali. E poi sono muri da 80 e cazzo, e non li passano prendibili. Certo che sono muri vecchi, chiaro, un po' di umidità ci sarà, però non è umida la casa, capito? Già c'è il riscaldamento per cui asciuga ed è tranquilla, capito? quando comincia a fare la gassa, ivi, caro mio, diventa bianco bianco, eh. Oh, però dentro non ce n'è freddo, capito? No, no. Poi quella casa, sai come è stata fatta? Mi è stato buttato tutto l'inzona a quell'interno, proprio a zero completamente. Messa le pareti, il ferro, la rete elettroscaldata, dritta, poi tutto quanto in una carta a cemento, cazzo il banco di drappa lo mettra, ivi, se lo fai buttavona, cazzo, per dirti che rimane bella forte all'interno, capito? È un po' brutta scendere lì, capito? Ecco, tutto lì, un camion marcia, magari deve portare dei mobili per dire no, una macchina grande non ci passa, un attimo passare questi camioncini così piccoli, ma no, mezzo grande non ci passano. Quello è brutto, perché è stretto e se quel furgone non passa, un mezzo più grande, ecco. Sì, però, ma nella vita tutto lo possiamo avere a disposizione, capito? Infatti, occhi saggi. Se ci siete scesi, già l'avete visto, che va bene, certo che con la macchina mio nipote non è che possa passare lì, se non allarga la curva, sì, quando penetra a casa sua, a marcia avanti, mi deve fare poi un rientro sulla curva in modo che lui possa girare facilmente, ma se no lui come fa a entrare con la macchina lì? Ecco, perché adesso lì come scendi, lì dove c'è tutto con rottame, lì bisogna ammucchiare tutto, fare un muro di sostegno alto, riempire in modo che la macchina possa girare facilmente, almeno lì, capito? E lì deve fare un rientro, si deve allargare con un rientro, capito? Adesso magari prima magari si finisce la casa, se ne va dentro e quei soldi che sta pagando l'affitto capita, quando è in casa sua, poi un pezzo se ne farà oggi, un pezzo se ne farà domani e così via, no, è la cosa che si può fare, perché se ci fossero stati i soldi vabbè, ma siccome i soldi sono pochi e quello che ci sono non è che deve pensare solo alla strada, a tante cose deve pensare, capito? E per cui magari vedranno loro cosa fare, capito? Ma sa cosa vuol dire una famiglia che ha la casa? Sa cosa vuol dire lui? Quando uno ha la casa, vuol dire molto, ma molto, anche se non puoi avere tutte le comunità entrare e uscire con le macchine eccetera eccetera, ma è una grande comunità avere la casa oggi specialmente, perché secondo appartamento che tu vai a prendere ti basta 400-500 euro, se ti bastano pure, capito? Mi dai se entri in luogo in pianura in mezzo, ma tutto lo possiamo avere, no? Quello se c'è un lavoro fisso, un motto ti puoi rischiare, già un altro discorso, capito Giovanni? Tante cose ci sono, tante cose, però ripeto, l'importante è che c'è abitezzo tranquillo, capito? Anche se non entra con la macchina si deve arrangiare, piano piano se la farà una strada come si deve, boh, non lo so, per lui. Io aspetto a Sore, a Bacchiglio, fino alle 8 dopo chiudiamo, alle 8 chiudiamo, dopo le 8 non ci sto mai, perché, d'accordo, vai pure tranquillo, fai pure quello che ci va a fare, se no, eventualmente se non può entrare ci sentiamo domani se Dio vuole, ok, ciao Lu. Sommari Bacchiglio. Marchigio, non stai uscendo. Ah beh, Marchigio, Marchigio, allora parecchio roba e poi lo vedi, boh. Gian Mario. Marchigio. Bello, gatta, bebe. Buttacelo, Marchigio, quello lì, buttacelo. Dai vuoto il cassonetto, dai, buttacelo e attacca l'altro e va più bene. Sicuro. Ma dighi no. E come? Tutti di muti, buonasera a tutti e due. Buonasera, ben sentito. E allora, come si va? Con la macchina, non più a piedi. Ah, sempre con la macchina, a piedi nulla. Finiti sono questi. Vabbè. Ma finiscono anche quei ceppi della macchina pure. Sicuro che sì. Ah, vero. Oh, boh. Adesso mi devo fare gennaio, mi scade anche a me, chissà che me lo rinnovino. Oh, perché? Cosa è? Qualche problema? Capito. Vediamo un po'. 81 che ne sono. Dove devi andare, vestito? No, vado a capire a grattacielo, io vado. Tutti gli anni vanno via a quello del grattacielo, quelli fanno tutto, vanno a pulizia, i carabinieri lì vanno, capito? Io vado sempre lì, a secondo piano il grattacielo vecchio. E per cui sono andato sempre lì, capito? Vabbè, allora se i clienti lì già chiudono un occhio. Non credo perché anche loro hanno delle responsabilità, però fatta legge, trovata l'inganno. L'hanno trovata uno vicino fuori di casa, 82 anni, un pericolo pubblico, quando vai a lui salta al muro e vai, a chi viene messa. No, non è così, è quello che gli hanno dato al vialetto, siccome il figlio conosceva persone del vialetto, gli hanno dato alla motorizzazione, alla via Giovanni Pascoli. La scuola guida gli ha detto no, vado a Vesteggio. Posso immaginare, ma io ne vedo una anziana, una donna anziana, ma quelle sì che io penso che sono qui, lo dico almeno 98, 99 anni. C'ha una peggio rossa e posseggia sempre qua di fronte vicino alla coppola. Tutti i giorni viene a posteggiare, ma tu la devi vedere uscendo dal parcheggio e entrando, ma chi lo ci mette un'ora? fa? Ma come fa? Poi camminando. E la vedo, chissà come cammina su strada, non lo so. Ma... Sì, c'è il suo pubblico sopra la gente. Avanti, ci lo so. Certo, una volta che tu giù, che c'è il pericolo pubblico, se no non va da qua. Cosa, Antonello, il microfono, eccotela. Ehi, me l'ha dato il microfono, me lo attacco al culo perché non funziona. Non funziona, ehi. uno male più dell'altro. Maestro, dice, questo è già pronto, inseriscilo e parla. Inserisce adesso l'importante. E allora vuole cambiare qualche filo, vuole cambiare. Tutto vuoi ciambato. Certo, si vuoi ciambato tutto là. non conviene nemmeno averlo. Ma chi? Ma è un altro microfono, cosa fa? Mi serve costa 14 o 15 euro un microfono dalla misera. Glielo compri nuovo e glielo attacchi, almeno c'è il microfono nuovo, sempre dipende dal microfono. Sì, il microfono io l'ho comprato nuovo da Torino, da GPC, 29 euro, una cagata, non serve a niente, su questo apparato non ci va bene. Sugli altri apparati che ho, sul multimodem, sull'altro Intec ci va bene, su questo Intec non ci va bene. Allora, guarda, a cercarlo in internet e bene trovo, perché ci sono tutti i tipi di microfoni, e io stavo guardando l'altro giorno, perché stavo guardando quello della Yaesu, e ci sono tutti i tipi di microfoni, tutti che ha la misra, tutti. Per cui ho detto il microfono, ci sarà l'originale, no? Vabbè, senz'altro c'è l'originale. Dove l'hai trovato? Su eBay? Su eBay l'ho visto. Quello lì non lo so, non mi ricordo quella pelle com'è il microfono. Però ci sono, perché ci sono tanti tipi di microfono, lo so. E tu glielo puoi guardare su il microfono per quell'apparecchio, no? Cos'è? 500S? No, questo qua è 34S. Ah, 34S. Domani te lo guardo e vedo se riesco a guardare, se riesco a trovarlo. Da 34S. Richiedilo, sto, richiedilo, dai, che se te ne va, te lo danno, se c'è te lo danno il computer. Io domani ti guardo a vedere, no, nel computer, ma nel coso, nel tablet ti guardo, per dire più facile a girare. Almeno è l'originale, è sicuro che va bene, capito? Certo, ma in qualche tipo di apparecchio, se non è il suo, non funziona bene. Capito? Come quello che ho io sono il 497, secondo tipo di microfono, non va bene, capito? Si vuole proprio il suo. Adesso provo il microfono. E poi perché certe volte bisogna ingegnarsi pure a provare finché non trovi il punto giusto, e certe volte basta un filettino che tocchi, non ti va bene, capisci? Non ti va bene. Bisogna bene a fare bene le saldature quando si fanno le collisioni, capisci? Perché mi sembra strano, capisci? Io ci ho riuscito, e un'altra persona con un altro microfono ci ha riuscito. Allora, evidentemente, magari io non sono buono, ma un'altra persona che è capace a fare questi lavori ci deve riuscire. Non so c'è il Bacchi. Importante, signor Bacchi. Vedi, le cose del... è questo, quindi quello col microfono lì non va, quello che stavo adattando io, esce di portante oppure esce col fischio. Invece lo piazzo su un altro apparato, funziona un gioiello. Allora c'è qualche contatto di ferro all'interno dello spinotto, e all'interno, perché di solito all'interno ci sono dei condensatori piccolini, capito? Magari che faccia energia, e allora quelli se la trattengono e allora funziona bene, se no non funziona bene il microfono, capito? Può essere anche qualche condensatore dentro che è partito, no? E ci fa quell'effetto. No, quella che funziona il capsule. Allora l'India che dice che ci vuole una compressione da mille, non da che lo sta ricevendo, vuole mille ohm, capito? Adesso vuole dire 1000 ohm, il microfono dell'India. Ah, 1000 ohm. Le capsule sono veloci, insomma, anche da 1200, io ce l'avevo messo la da 1200 e funzionava che non bombo. Si trovano le capsule da 1000 o bacchie. E anche qualche capsule ci sono su eBay, non hai idea, di tutti i tipi. Bisogna forgiare un computer, ci sono i forgeggi, non la ciappi. Una volta l'avevo trovato, l'avevo ordinato 4, e mi c'era dai primi ordinato, e quelli andavano bene. Infatti l'ultima l'avevo piazzata sul microfono dello Santovello e non ci ho visto più la cazzo da ricordare. E quelle noi avevamo da 800, la 1000 non le avevo, mi hanno dato da 800, non funzionava lo stesso. Va, ripresito. Io fa sempre del dojo, boh. Signor Bacchi. È così, a Santa Rangia, sì. Ma non sta uscendo questo. Come non sto uscendo? Questo si sta uscendo bene. Sì, sto uscendo bene. Adesso è un po' boh, Bacchi, siete quello, Sì, sempre lo stesso, Allora, momento, siamo visto lei. No, questo è il nuovo, il vecchio, quando esce, quando le piace a lui. Ah, riprenda, Chiotto. Riprenda. Come è andato Pomponio, Bacchi? Sto uscendo con quello potente. Stava a basso e basso, però. Siete accavallati uno con l'altro. Signor Gio Marino. Allora, perché sto uscendo con quello grande? Signore. Ehi, Gio Marino. Ah, io ritrovo la tua passata a casa. Lo stavo dicendo, se sto uscendo bene con questo. Ehi, e qual è quello preciso? Quello grande. Ah? Quello grande. Ah, va bene. Basso rimane, appena più basso di prima. Adesso ho aumentato appena, adesso. Va bene, così va bene. Puglia. Un bombone. E allora andiamo così. Spero sia da chi. Sto bene, tutto bene, sto. Aspetta che si fornisca. Sta bene scanno, stavo. Se devo fare un caso per voi. Ma tu non c'hai il coso dei pliani di quello apparato grande, non ne hai, non so? Sì che ce l'ho. Perché vuoi sapere qualcosa? Ma io già ce l'ho da quando l'ho comprato. No, perché tu se guardi le istruzioni ti dice come spostare quelle levette. Sì, no, l'ho regolata adesso, l'ho messa appena più su. Basso di radio, di radio è più basso, però di segnale quando scala. No, quello è un bombo. Sì, fino a che non scalda. E tocca ad attiguare. Ah, che Bacchigi non c'è, sai, come segnale è fortissimo il Bacchigi, No, io sto scendo col nuovo. Torre sta andando con lì. E quello lì se non scalda, non va, deve almeno 10 minuti di surriscaldamento prima di entrare in campo. Piano piano è stato, che hanno dovuto dare che è accaduto. Queste radio sono come i giocatori, se non fanno il riscaldamento prima non funzionano. Infatti, finché va così, se no arrivederci. Anzi, Gian Maria. Ma mi pare che c'ho solo appiccicchio, la gestazione ha preparato tutto. Ero tutta la sera oggi in movimento, lavorando in campagna, per cui c'è anche un po' stanco e fame. Anche oggi mangiare un po' mi si fa se più li giri, così che mi pare che va attacco e mi dà da mangiare pacchi. Dai, ci sentiamo domani sera, pacchi, dai. Buon proseguimento, mi ha fatto piacere il mio sentito. E ci sentiamo senz'altro domani, se Dio vuole. Saluto di casa, pacchi. Sto ripreso, dai, e ci sentiamo, dai, chiudo. Ciao anche a te, saluto di casa anche in famiglia, ciao. E ok, ci sentiamo Gian Maria. Ciao, stammi bene. E sogni d'oro stanotte. Ciao Gian Maria, buona serata, saluto la signora, buona carica, buon tutto. A domani ci concide. Buonanotte ancora. Avanti, mister dottore. Ehi, andate così, andate. Oh Iuia, quindi non funziona, ma mi pare strano che non andia. Infatti, adesso volevo fare un lavoro, volevo provarlo in questo apparato qua, lo prendo, dove ce l'ho buttato, eccolo qua davanti a me, adesso lo metto in questo apparato e se funziona. Posso, adesso lo presenta, sarai più fortunato. Andate. Che importante fa? Anche quello lì. Non lo so. Mi ha fatto di da mania. Ma domani mangia una pozzuola, appunto. Domani Eva. Tutto il giorno domani acqua. Io cosa ti dico? Io domani compagna mio nipote, scusa, vado a fare la spesa e poi devo portare la macchina in officina. Dunque sei a cavallo a piedi. Tanto tolgo in casa fino a Risetti. E poi a Risetti andrà a pigliare a Mira. Non ce l'hanno fatta già a Cassini. Si è inserito le colonnine qua e funzionano bene. Sì, quello piccolo, quello nuovo. Sono nuovo, vanno bene, quindi l'altro andavano sempre bene, adesso innesca. E vuol dire che c'è qualcosa è successo. Non mi comprendo più nulla, no. Sono tutti malati sono. Tutti malati. Sì, perché sono amplificati, c'è un trasformatorino dentro, un piccolo trasformatore c'hanno. Sono amplificati, sono ben amplificati. E se lo accendi non funziona, dentro deve avere qualche amplificatore. Sì, c'è un amplificatore dentro, perché sono alimentati, Se lo spengo non funzionano. Infatti, se lo spengo non funziona. Ogni muscolo, tutto faccio. Infatti, giusto. Ah, domani te lo guardo a vedere se c'è qualche microfono l'originale. Io penso al microfono. È strano, funzionava fino all'altro giorno, funzionava perfettamente, adesso non più. Malato, o se ne sono trovi qui, non va a male a tutti, a me. Infatti, grazie Gucci di vedersi. Sto pensando che non sia l'attacco del PL come l'altra volta si era risalvato. Sto pensando che sia anche quello lì. Il coso, il caffetto. L'altra volta non gli era distaccato. Oh, non è stata dove? Io voglio vedere. Domani sera io metto un altro. Ma è il capo dell'antenna? Sì, adesso fa l'antenna. Andate là. Vabbè, Bacchi, sono lotto. A me mi sono ciamende. e ci sentiamo domani, ci sentiamo, da. Ok, mi ha fatto piacere sentirti stasera. Ah, di mano a sede, Ruggiamendi, e sei parito. Perché ho ricevuto mio genero, avevo chiuso il battino. Ah, così è, non da vero. Vabbè dai, ci sentiamo domani, baci. Piazzone, ciao, salutissimi, buona serata, saluto la signora, a domani sul consiglio. E anch'io mi avvio perché ho la vita. Sono le 8, ora esatta. Ciao ancora, buona serata. Ok, ciao, baci.